dalle tue labbra le parole che non hai. Si perderanno nella notte, una prigione dalle mura sorde ti nasconde. Porta via l'oscurità, truccando il viso il suo dolore. Rinasce e muore in un inverno senza primavera. E anche se ormai sei lontano, affondano